scuso. No, è un periodo brutto, ragazzo. Allora, durante le lavori di guida a disco, se qualcuno sta ascoltando che sa cosa sto dicendo, durante quelle lavori di guida, allora, con le 45 di fermato, nelle 2.45 mi fermavo o per mangiare o per dormire un'oretta o per farmi la doccia, e da poi sempre a me sono passate a fare facevo le acciaierie del Taranto da Gotta. Ah, sono roba di Sperlanti. Le acciaierie di Taranto, bobine passato. Ah, due passi là. No, ma non mi pisava nulla, non mi pisava nulla. Solo di fatto, cose che promettevo, perché giustamente dietro a confesso, vai tranquillo. Salivo e scendevo, sempre continuazione. E via, da te! A mio cugino era camionista, si faceva Bulgaria, Albania, Romania, e gli andava in manco. Ma per il lavoro di autista è stressante, è troppo stressante. Ma io invece dico la verità, guidato e scaricato pure. Visto, se contento sì. Io portavo merce alimentare. Invece io non guido ma scarico anche, però non guido. E la scaricate con taglia. E anche, no, c'è un muletto, non c'è problema, dai. C'è un collega attacca il muletto e scarica lui con muletto. Io il muletto non lo tocco neanche. Ci vuole la patente per guidare il muletto, non è vicino. Lo so, io la patente ce l'ho solo per la moto e per la macchina. Il muletto non ce l'ho. Io lo guidavo sempre il muletto, stavo sempre il magazzino, mi caricavo il tanno, lo facevo tutto io. Gianni, senti questa, mi ascolti? Ehi, un anno lavoravo per Antonello Rosara, no? Avevo portato roba alla Continente, forse a Milano mi pare, e arrivo al mercato così salto di domenica, e questo magazzino ora vanno a mangiare in barca, ma avrò un bisogno di studio, un paio di voci, e mi era già aumentato, e non mi conosceva più, sono passato 7 anni. Io ho detto, non è proprio male ad operare, questo ragazzo mi fa di chiamare la marca al fare. Ho detto, già per la bocca, non ho mai usato il duetto, ma dice, mi è facile, insomma, per portare, sto per andare avanti e questo per andare indietro. Fatto le prime pedane, mentre migliora pedane, ragazzi, l'ho buttato giù, io, pedane e muletto, tutto strutturato a terra, da andare in fondo a Virugania. Ma muletto era oppure traspallito? Era quello grande, era tanto, un tre spalle lì si era. E se faccia il... Ma guarda, sono anni che lo guido questo cazzo di tre spalle tipo. Giuro che non... Tutt'oggi, forse per il giorno, sì, sei lasciato tutto. Tutt'oggi, cazzo, se ne sono caduto anche a piedi facendo una curva, se ne sono caduto a me. Io vengo una curva, fuori e ne piaccio. Perché bisogna saperlo guidare, capito? Non è una cosa... è facile, perché io lo guidavo tranquillamente in scioltezza, portavo le pedane, scaricavo, prendevo l'altra. Quando arrivo a fare il camion, con 12-13 pedane, me l'avvicinavo alla sponda, io col traspare le prendevo, capito? Acchiappavo col traspare, oppure col muletto, e le portavo giù. E poi le mettevo in magazzino. Diciamo che sono attrezzi che bisogna saperli guidare, perché se non fai danno. Se si conferma. Non ci ho mai capito niente, guarda, senza dire nel posto nell'uomo. Là dove il sabato dovevo due ragazzini che si. Quelli che ti portavano due ragazzini a fare compagnia, se li portavano da loro. Tu vedevi questi ragazzini piccoli, cazzo, 7-8 anni, cazzo guidando, questo cazzo di muletti, pure pedane di un maledetti, cazzo, tu vedi mania a bocca picca. Ma diciamo che bisogna darli dei mezzi, a questi mezzi qua bisogna dare dei, specialmente se io portavo le pedane per dire in alto, c'eravamo la scaffalatura alta, e quando le porti in alto devi avere molto occhio, perché basta che tu colpisci il ferro del coso e fai danno, devi fare tutto in terra, basta che dai, che sbagli appena appena di un pelo. salendo a pedana, che tocca appena appena la scappanatura, che si fa tutti e tre. Vabbè, una volta solo mi ci ha dato una pedana di latte, ma non è stata colpa mia, aveva di quelle pedane che non erano europee, era di quelle pedane leggere. Praticamente la stavo portando all'ultimo piano, pure io, che ma non pensavo che si potesse fasciare. Come l'ho stata in latte, si ci ha dato la pedana di fare tutto l'altro in terra. Cristian e Gianni, mi aspetti sopra un attimino solo, rientro subito. Sì, quale pedale di leggere, quale pedale di tutta leggera? E allora, si è troncata in mezzo, e la mia sfiga è stata che è arrivato il principale proprio in quel momento. Quale pedale, ho trovato un negozio ieri, sono passato sopra io, mi sono troncato sotto i piedi. Sì, si spettano. Io non so perché avessero usato quelle pedane lì, perché di solito si dava la roba, però non ne avevano, hanno usato quelle. E niente. Io l'ho salita, l'ho portata all'ultimo piano, come la stavo per mettere, si è messo tutto. No, io no, cazzo, un attimo, ma come arriva via la cappotta, il muretto, no, perché c'è tutto in mano. Mi ha chiesto il tiro l'altro giorno, se avevo delle pedale per il fuoco. Ma sono trovate le palle 999, fiammanti? No, ma noi le europalle non le davamo, perché costano 25 euro l'uno, lo sai. Se usano queste palle, mi trocca l'uso. Costano 25 euro l'una, ti fanno. Quelle europalle, ti serve le guidare, quelle leggere io le davo, ma le altre no. No, non voglio principale, dalle tutte, dai, prendi e dai, fregate, prendi e dai. Vuol dire che c'ha soldi da buttare qui e gliele fanno pagare. A noi ce le facevano pagare. E noi andiamo con la merce direttamente. A noi per dire 12 ce le davano e 12 ce le dovevano riprendere quando venivano a portare la merce. 12 ce le davano e 12 ce le portavano via. Poi, camionisti, ce l'avete le pallet? Sì, lì, sono lì, prenditeli. Noi ci davano la pedale e noi davano la pedale anche. Cioè, per così facciamo anche. E anche loro facevamo così. Noi ci davano la pedale intera e noi davamo quella punta. Solo che molte volte quelle che ti portano sono qui, che tu te le dai nuove, capito? E chi ci deve infatti adesso le pedale, quelle buone e nuove, cioè le ho messe tutte a parte, sotto la coperta le nostre. Quelle vecchie per il fuoco sono messe per il fuoco. E già sono utili, c'è molta gente che fa quelli cuci per di cane, si costruisce. Ce n'è uno, a portatore, si chiede di regalare un legno e faceva tante cose. Faceva punti di tipo taglia a carte così, poi faceva quelle, come si chiamano, dove si taglia la carne, quei taglieri tutti quanti ricamati, fatti bene, tutti scolpiti, fatti alla grande. Faceva molti lavori con legno che mi dava, poi mi faceva regali, mi taglieri me l'ha portato e poi mi diceva appesi in cucina, uno piccolino, mi ha fatto piccolo. Io taglieri li faccio d'olivastro quando ce l'ho, però faccio più coltelli che taglieri io. Attenzione, prego, sono alle 10, cambio, Gianni ci sei sempre, Cristian ci sei. Chi è costui? Capo del raggio, no. Pia Peroncino. Peroncino, come stai Peroncino? Peroncino sei tu lui. Peroncino, sei tu sta giudizio, cazzo dalla scabuccia, allora vuoi comprendino. Io sono Giovanni Stanco. Se non ti vieni stanco, Giovanni di Guatamona. Ma se mi chiami stanco è meglio. Stanco! Positivo, vieni avanti. Questo prima mi ha detto che ti andava bene, ha messo un po' Peroncino, però ti andava più bene, come stai male? Cazzo, non ho dormito, due volte la notte non ho dormito, vedo sempre il bisogno, cazzo Peroncino, cazzo, ma non è che tu mi intendi di tu, cazzo Peroncino, il figlio è la sera con, è alcolizzato, e io non lo so, tu che metti a fare cose, ma chi, come ti so? Peroncino c'è la salute, ma l'archivo, vero? Va bene, sta! Ti rapporti a me, però il cazzo Peroncino mi pare che non abbia tanto bene, anche da dietro si può fare tutti i pensamenti, no? Sì, vabbè, no, non è quello il coso, sì, vabbè, comunque, se non vuoi ti chiamo stanco, come ha detto Gigi, dai. Ma macchina mio fratello non si chiama di Donativo, lo sai? Diglielo, non si chiama fratello Donativo Antonio. Riserva. E perché riserva? Perché stava sempre a riserva con la macchina. Io sono malpessimi, guarda, va tranquillo, chiedo la macchina, boh, a volte va anche a secco, quasi rimango. Sei pregiudizio, capito? Perché io qua sono un peroncino di un capito che va sempre a qua. Già, so che sai come c'è la peroncino? Cosa? Chi è la peroncino al baracchino, te lo ricordi? No. Domenico Peroncino. No, non me lo ricordo. Battigliato un bel anni fa, a me 60 anni fa mi hanno battigliato. E beh, stacco tu pensi che sei tutto cazzo parato, tu sarà quanti anni fa l'ho battezzato? Certo, qualcuno sta entrando, una modulazione allucinante, non si comprende, non si è amplificato, non si è amplificato, non si è entrato. Chi è? Sto facendo malissimo, io perlomeno ti sento malissimo, sembri fuori frequenza. Aspetta un attimo, c'è qualcosa che non quadra qua. Chi è? Non funziona. Ma chi è? Ti va avanti l'amico. Ma tu come lo senti di Cristo? Vedi l'amico come sta uscendo. Male. E non riuscire a scendere. Devo parlare anche. Sì, Franco. Dai, non ti faccio nel mento solo. Allora, prova a vedere se è in FM, perché mi sa che è in FM. Chi sei, Fabrizio? Roberto solo, che Fabrizio? Chi sei? Roberto. Roberto Guarra. Sì. No, qua, stai uscendo malissimo, Roberto. Controlla che non sia in FM, controlla quello. È tutto fuori frequenza, deve essere come che sia in FM. E tu che fine hai fatto? Ti stai giungendo a non mi E io sono andato a comprare roba e non c'ero, capito? È entrato adesso. Ah, se ne va. Questa volta la conosco, Antonio di Sassari, se qualcuno me lo vuole salutare, che tanto lui almeno mi sente, mi farebbe, mi fa favore. Grazie, cazzo. Ma lo senti Natalia, Giovanni Patamon? Basso, lo sento, deve metterla più in alto quell'antenna, se no non arriva bene da nessuno. Ma qua arriva forte, arrivano vicino. E da te, io faccio un'antenna bassa e non rintendo. Io sento che sta parlando, però è incomprensibile adesso. Poco fa non lo sentivo per nulla. E comunque ti salutava. Giovanni ha detto Natalino che te lo devi alzare di più quell'antenna. Che sei troppo basso. Sì, lo sento a lui lo sento, l'ho sentito quello che sta dicendo. Già, mi hai sentito, riferiscilo, a lui io lo sento, capito? Eia, lui ha detto che ti sente Giovanni, Natalino. Lo so che mi sente, solo che sono io che non sento a lui, a parte che io ho l'antenna troppo bassa anch'io, quindi è logico che non lo ascolto. Io sento che sta parlando, però è incomprensibile, capito? Sono passato da parte mia a lui, chiedi se l'ha messo quel baracchino. Aspetta, se hai messo quel baracchino, Natalia. No, vuole messo a posto, vuole. Incalcato, capito? Ma tu senti a me o senti a lui? Tanto arrivo. E a me tu sei più vicino. Io non voglio anche la macchina, con te la metto in mezzo. La posizione a posto. Se voglio guardare in questo, vado sulla vettura a vedere, che forse è questione tutto l'apparato, vado sulla vettura. Chiamo dalla vecchia. Oh, vabbè, già, io a casa mia vado a votare tu da me, sulla Woody Woody, da casa mia. Già è più lontano, là. Già non so dove abiti tu, dove abita lui più o meno. Perché dove abita lui, il padrino di mio amore c'è con la campagna, ci sono andato per i voti. Per cui. Non conosce Andrea Pina o... Come si chiama? Giovanni. Basta fare la mano mobile. Oh, Giovanni, sei signor Andrea, tu non conosci più Andrea Pina, quello che aveva la campagna lì, ce l'ha venduta però. C'erano lì la campagna, c'erano certificati con i buoni, piccoli ma dolci dolci. Ehi, a forse cazzo di barati, andavo, ti davo una mano a prenderli perché è un bene che arrivano in terra, perché lui ci andava a poco, che non si sentiva bene, ce l'aveva morto con baraccio. E andavo io e con le casse che ce li prendevamo, quanti ne volevamo ce le davo. Ma non sono quelli buoni, è come le arancia che ci sono qua, non sono stati innestati, sono di quelli selvatici, non, se non li fanno l'innesto, sono amari o legosi, capito? Io una volta ho fatto la cazzata di assaggiare quei mandarini che crescono negli alberi che ci sono piantati vicino a casa. Ma ha fatto la bocca velerosa. Che sono tossici? No, non sono tossici, ma non sono innestati, capito? Erano amari che non si potevano mangiare. E magari sono di quelli legosi, capito? Quelli che non sono stati innestati e non servono. Li mettono per bellette. Anche come ci sono anche i mandarini, non li visti scendendo via a Roma, hanno la piantana, ci sono. Ti sente massicci? Ma Tali lo senti? No, a lui non lo sentono. Ecco? Come sta facendo adesso? Un po' meglio, ma non tanto. Non ho capito cos'è successo qua, perché c'ho le stazionali altissime, ma è successo, speriamo non si sia rotto l'accordatore, perché, ok, è successo qualcosa alla Mantova. La radio com'è? Adesso va bene. La mia solita, E anche troppo forte. Adesso cambio un attimino il microfono, perché c'erano le stazionali a manetta, non ho capito cosa sia successo, voglio fare diretto con l'antenna, adesso guarda questo microfono già, attacco un altro microfono e mi dici la differenza. Probabilmente oggi c'è staccata la massa con quel vento che c'è stato, come mi ha piegato il palo? Può darsi che abbia lo spettone a massa, digli controlla la voltette. Guarda, questo è un altro microfono, niente cambia. Insomma, la radio non è chiara. Non va bene la radio. È troppo forte, abbassa. Guarda adesso. Adesso va bene. Che differenza c'è tra uno e l'altro? Meno male sono uguali. Ma la voce è chiara adesso, si capisce? Sì, adesso sì, poco fa sembrava in effetti. Lasciamo le stazionali a 1000, adesso ho usato l'accordatore, sto accordando, aspetta, voglio fare una prova. Come arrivi il segnale? Così ho le stazionali a manetta. C'è 9,5 di segnale, non ti guardi. No, c'è qualcosa al cavo di connessione. Adesso sto uscendo bene, il segnale c'è. Prova. 1, 2, 3, prova radio. Adesso sì. Ok, scusate, un attimino guardo un pochettino cosa è successo dietro. Nei cavi, che strano che ci siano le stazionali a manetta. Ma è successo? Lo spezzone a manetta, devi avere lo spezzone in corto, controlla la voltetter. Adesso voglio fare una prova, grazie per il momento, dai, ci sentiamo magari dopo. Sperano che lo sia su che ti abbia toccato un'antenna. Il vento che c'era, non so se l'ha tirata, ma a me mi ha fatto da bambino. Basta controllare l'antenna diretta se c'è stazionaria, molto ci vuole. Ma sicuramente c'era lo spettone a massa. Avanti Giovanni. Eccolo, un ascolto, ho dato qualche consiglio tecnico, non so quanto possa valere, però ci ho provato per lo meno. Non ho capito che cosa hai detto però. Che ho dato qualche consiglio tecnico, ci ho provato, però non so se possa valere, però ci ho provato, dai, ho voluto partecipare anch'io. Ma che cosa hai detto? La tua qual era? Prima quando stava facendo le prove, no? Quando chiedeva il consiglio. Ho capito. Cristian. Era Cristian, quello che aveva problemi. No, non era Cristian. Cristian è quello che abita vicino alla casa vicino a te, da sua cucina. Non era Cristian, era Roberto. Mi ha detto che c'aveva le stazionarie e tutto, che stava manovrando con l'accordatore, non era Cristian? No, era Roberto Quadrato. Allora sicuramente lui non mi sente a me. Era Roberto quello, come senti? Come ti radio? Bene ancora? Sì, bene. Ok, dai. Adesso è chiaro, non i puliti, ecco, perché ti rovina tutto. Dimmi già. È più chiara senza eco. No, vabbè, adesso lo uso ogni tanto, lo uso quasi mai io. È come lo tocco in macchina sotto la rotella, capito? Lo tocchi senza volere. Esatto. Ma se tu lo lasci a 3, 3 e mezzo, tra mezzo, 3 e mezzo, 4, prova. Adesso è 1, com'è? Adesso non si sente. Adesso è 2. Vai avanti. Adesso è 3. Non fa passare giù il copero. Adesso è 3, 1 e 3, com'è adesso? Ma ripetitivo, troppo ripetitivo. No, è stato toccato dall'interno per il giro di qui. Non è possibile, perché a me a 3 mi andava bene. Vabbè dai, quando ci vediamo ti faccio vedere, dai, non c'è problema. Dove va a andare a 3? E la rotella è tra il 3 e il 4 lo mettevo. Ma a 3 era più ancora più chiara. E vabbè, quando ci vediamo te lo faccio vedere direttamente, dai. Adesso non voglio dimostrare niente. No, no, sicuramente dall'interno è stato un po' toccato, ma se non ti metti ecco va bene. Faccio così, va benissimo, va anche troppo bene. Se lo sto usando, va benissimo, guarda. No, così è chiaro, mamma. Vabbè, guarda cosa è successo. No, l'ho fatto, se sta smontando tutto. Ma dovete segnare che era un segnale allucinante, ma non ho sentito quello che era. Usciva, no, usciva tutto quanto gracchiante, tipo fuori frequenza. Che me ne sono abizzato. Cavagliato. Ma che ore sono? Non lo so, niente, così, sono 7-5 minuti. È presto e ancora. Sono le 7:30, amore, guarda, porti città. E poi si anche a mangiare. Ma guarda, io oggi sono andato al lavoro, perché non c'era lì, qui casa, non c'era il pagamento. Sono andato alle 4, alle 4:30, no, ma sono finito in pubblico, apriamo dalle 16. Alle 16 e alle 8 alle 11 e vabbè a Napoli, cacchio. Ma dove? Alla Fiamma San? Sì, qui alla stazione Valghero, dietro la Coporama. Ah, no, pensavo quello che c'era a Pontone. Ho chiamato la tua giorno, devo dire gli orari, l'altro giorno, ho chiamato al telefono, gli orari, no. Ho preso il lavoro da Bambuca. E poi sarà la casa di Baldico, ma da te a... E poi si domani, esco dal lavoro e vado e parlo, scusa, c'ho prima. Ma poi cosa ci avete? Bombolone in campagna? Bombolone da 1600 litri in terrazzo. Quindi ve la portano loro? Siamo a Bolletta, vengono, ce le ricade e se ne vanno. E noi li paghiamo un total, mi sembra 70 euro al mese, pure non so neanche cosa paghiamo neanche. Ma non è in base a quello che vi mettono, lo dovete pagare? No, noi siamo a bolletta, consumo. Quando consumiamo si paga. Giovanni, ripresi il microfonino. Sento, sta attento, sta affrontando, mi sto facendo la cultura, non lo fai ancora la cultura. A me mi conviene stare più in ascolto, a capire com'è la situazione, cazzo. Io ascolto che avevo visto, si fa una cultura. No, in base alla modulazione, tu ti sentiti le cose che si dice, questo, forse quell'altro, situazione, modulazione. E tutte queste cose che riguardano gli apparati. Cristo, i camionisti modulano in un'altra maniera, non modulano come noi. Hanno tutto un altro modo di modulare, modulano per lavoro e cose, non è che fanno queste cose. Ricordo già vero, scusate, ricordo già vero, in effetti. Ma non è vero, guarda, è la stessa cosa. Lo usi se ti serve un'informazione, lanci l'annuncio. Mi trovo qua, devo andare a entrare in posto, da dove mi conviene passare, da dove mi conviene entrare, ti dispaccio, magari dici la tipologia del mezzo. Io cosa giudico? Non riesco a passarci, tutto lì. Infatti voi lo usate per lavoro, lo sai cosa ho detto, lo usate per lavoro. Non è che lo usate per hobby, come ce l'abbiamo noi l'hobby, capito? Guarda, il braccio è bello per tutte quelle cose, per tutte le cose. Sì, ma no, non sto dicendo che, però lui Cristo ha detto che sei un camionista e non sai come sono le cose, ha detto i camionisti lo usano per diverse cose, lo usano per lavoro. io ho iniziato a guastarlo, io ce l'avevo guastato, so che si fanno, così l'ho trovato, così l'ho lasciato stare, tirato la rotella e passato. Adesso io che mi sono messo, io di antenne che cazzo non sapevo una cosa da fuori l'antenna, tanto per dire, io stazionare non sapevo neanche cosa voleva dire, QRE e tutto quanto, non sapevo niente, sto ascoltando e mi sto facendo un'idea di tutto quello che dite voi, sto imparando da voi in poche parole. Beh, ma basta fare ascolti, perché ti ascoltano, si impara, dai. Non c'è mai finito di imparare, c'è sempre da imparare. Io sono un buon ascoltatore. Allora, ascolta e parla, poi se sai qualche cosa che non sa, basta che la chiedi. Fai conto che è semplicissimo, perché poi l'ho capito come funziona, ma ho bruciato, mi pare, 3 o 4 baracchine e 2 lineari ho bruciato. Penso che basti, no? Serve meglio adesso ascoltare e basta. Ma scusa, se tu hai visto che uno te l'è bruciato, uno quando è ascoltato non continua a farlo. Chiede, no? Invece tu continuando e fasciare. Perché per me sembrava semplice, io attaccavo tutto quanto insieme, attaccavo tutto l'alimentatore, cioè non è comprito per me, perché io l'impianto stereo della macchina me li gioco, cazzo, ma questa cosa che poi è molto più semplice, per me gli ha dato problemi, mi ha dato. Ma quel lineare che c'è tu quello grande, bisogna saperlo usare. Il capo da 2,5, quello che ha battuto fuggiva di 10 ampere, secondo te? Perché la domanda? Dalla punta è abbastanza facile fare quell'impianto, è un po' casino passare i cavi, cioè da qualche altro poi si può fare, dai. Ah, la macchina qua si trova subito, e quella mia ci ha messo mezz'ora che ci ha fatto, non riusciva, ho usato pile puttini per vedere. No, io lo stavo su attaccare, batteria, con la batteria. Dove c'è l'ABS c'era un buco lì per passare i cavi, ci ho passati, non fai i cavi da 2,5 e sono tranquillissimo adesso, e lui lo c'era sui sigari, preso USB e tutto. Allora anch'io l'ho messo così, però ti dico una cosa, che in vettura questo, cioè la massa la scarica sull'antenna, la scarica a terra, dunque c'è qualcosa di sbagliato. No, io ho messo direttamente a dove si fosse la batteria, è collegato, positivo, relativo alla batteria, come si vuole 10 ampere, il cavo di Dio. Il negativo si dovrebbe collegare la vite della carrozzeria. Non è possibile averlo sul positivo. Sì, ce li ho quelli. Solo per quel buco che stai dicendo tu della carrozzeria, io ti ho già fatto passare dei cavi che mi vanno all'indicatore dello stereo. Adesso qualche giorno mi ci metto, non lo so, magari me la faccio domani, qualche giorno prendo e faccio passare altri due capi direttamente per il baracchino. Sì, poi la pulsante qui che c'è presa cinque sigari. Come sarebbe a dire? Se si mette di fare la batteria, se si può far fare la cinque sigari. No, faglielo fare dalla batteria direttamente, il capo va preso dalla batteria. Prendi positivo dalla batteria e negativo lo metti o in un ambito oppure lo metti nel negativo della batteria la stessa cosa. Ma la cintura di sicurezza, l'ammortizzatore va bene. Vabbè, comunque, vedrà lui, se no chiede consigli a chi gli ha piantato le altre cose, gli chiede consigli e gliele dà. No, ma ho sentito anche a Carlo poco fa, ho visto che stava spiegando che anche lui, mi pare che ce l'ha dato dalla sigari no, adesso ve li ha presi dalla batteria e faccio la stessa cosa anch'io, li prendo dalla batteria e basta, e lascio l'impianto per lo stereo della vettura, la radio a una parte, e con quello faccio un'altra parte, e quindi faccio un'altra parte, impianto a parte. Sì, tu fuggire la 10 ampere, ti metti fuggire la 10 ampere, ti metti anche, se è positivo, vedete la mano. Sì, ce l'ho già preso, poi, ho iniziato con l'impianto, non l'ho mai finito. Ma quello dello stereo? Quello dello stereo ho finito, perché ci ho messo amplificatore e via dicendo, però quello del CD, l'ho iniziato ma non ho mai finito, dunque cosa ho fatto? Per sentirla ho preso e attaccato, mi sono attaccato allo stesso impianto della radio, e la cosa non va bene. A parte che quando accendi la radio e vuoi parlare col baracchino, senti la radio, il baracchino nella radio. No, questo è negativo, non me la fa accesa, però non è bello quell'impianto, davvero che non è bello, c'è ancora qualcosa da sistemare. E i fili che fili gli ha messo? Scusami, non ho capito. Che tipo di cavo gli ha messo per l'alimentazione? Oh, cavi ne ho distrutto le sezioni, non ho problemi in cavo, non ne ho problemi in cavo, ne ho distrutto le sezioni. E tu quale ne hai messo? È abbastanza grosso, molto grosso, sarà un mignolo mio. Ehi, esagerato. Approssimativamente. Il mio è fatto un 12. No, scherzo. Avanti qui. Chiama anche l'Antanino, che c'è anche l'Antanino. L'Antanino. Ieri dopo tanto tempo avevo sentito il signor Gio Maria, l'ho sentito qualche anno fa, l'ho sentito, e l'ho sentito ieri e ieri l'ho sentito. E loro sono stati sul 23. E ma non mi sono intromesso, parlavano di lavoro, tutto quanto, non mi sono intromesso, però non giuga, non era un fatto. Adesso non ricordo se era ieri mattina o ieri sera, parlavano di lavoro però. Io non so, ci sono sempre i soliti nella notte. Natalino, così in sede addormentato, portarsi la roba. Perché adesso io lo so con lui, no? Natalino! Adesso signore migliore, vai. Ascolta, ma come si cazzo sente quando parlo io? Nada. Cristian, tu stai sempre aumentando di volume, ma sempre aumentando stai. Ogni passaggio sei sempre più alto, guarda me, Chi Cristian? Udi, vicino... Ma guarda, vicino a Bagratiella. Fortissimo cazzo, Beh, modestamente, grazie a Dio, riesco bene, dai. Ma dimmi una verità, me l'hanno detto gli altri e io poi non lo so perché non lo sento. Ma guarda che un impianto come questo che sto facendo io non l'avevi mai sentito, dimmi la verità. Come sto facendo adesso? Sto facendo benissimo, guarda. Sì, un buon po' adesso. Se sono in antenna di qualche altro metro... Esci perfettamente, che è un bombo, guarda, esci molto, molto meglio. Prendi il microfono già. E vabbè, vedrà lui cosa vuole fare. Noi l'abbiamo dato il consiglio con lui per quello che vuole fare. Se serve una mano, c'è problema, il sabato e domenica te lo posso dare pure io, guarda. Adesso provvisorio la lascio per portate il giorno, devo studiare prima la situazione, poi vedo, provvedo però. Mai visto come sono... Ah, se serve non c'è problema, un sabato sono mi libero per te e vengo. Ti ringrazio, va, ti ringrazio per la sua. Adesso devo studiare un punto di geometria per qualche giorno. Gianni la cavella! Siamo in studio! Gianni Cavi! Gianni! Cristian De Sicca! Felino, e me che lo fa? Cristian Cavi! Ho mandato un'email per prendere l'appuntamento per le analisi del sangue. Tu dovrai fare le analisi del sangue già, quando fai la vista diabetologica. Io vado alla Tanoce oppure in Piano Umberto, dipende. Ma pagamento? No. Mi ha mandato l'ultimamente di volta. Cosa? Alla Tanoce, Lu, che fai prima? Alla Tanoce non devi prendere manca appuntamento, non vai te lo fa. Alle 8 devi essere lì, perché apre alle 8 e dopo quel numero lì non ne fanno più. E alle 11 ti danno la risposta. Allora mi sento male, chiamo, vediamo un po'. Ce l'hai il numero di Piano Umberto tu? No, basta cercare LAS, puntata. Ah, ho capito, adesso chiamo domani allora. La porto lì direttamente. E tanto la devo portare il giorno 25, perché il giorno 7 ha la vista diabetologica lì a Rizzetto. Perché a Rizzetto? Sono spostati lì da Palazzo Rosa. No, io ancora non ho preso appuntamento perché gli esami che mi hanno da fare il diabetologo non sono riuscito a farne più di due e gli altri devo tutti pagare perché non ci sono posti con la S. Casino, sono non ne ho motivati. Vabbè, anche io l'avrei risparmiato qualche soldino, mi già. Facendo lavoro che sto facendo, tipo adesso la... come si dice, la denti che dovevo levare, e non avrei pagato, invece ci ho pagato 400 euro, se lo babuga nighi, se lo buga, e vabbè ormai sono andato, vabbè dai, riprendi già che mi devo prendere l'antibiotico, mangiare qualcosa. A me mi ha preso 80 euro a te. Quanto? 80. Io ho un po' radici, denti, dente, aspetta, me ne l'hai fatto, radici solo già. Ma se volete pure i denti, non c'è problema, Da nuda, già, da niente, radici da niente, 10 anni subito, 400 euro, loro hanno messo, fatti il conto, fai 80 euro l'uno, circa, 400 euro, 5 per 8, 40, 5 radici, 6 radici, boh, ciao, che dove sei? A me, sono in girella, posso... Pizza. Infatti si vede, sia sullo zero, la manata te ne scenda. Già mi senti bene? Sì, o mi senti basso? Ti sento bassissimo, guarda. E dove stai andando? Da me, un attimo a farmi una pizza che ho un po' di fame, non per altro. Una pizza? E dove? Da. Ho capito. Se non li posso mangiare, non posso mangiare sui punti, devo mangiare roba morbida, tipo polistirolo, gomma piuma, capito, cose così. Poverino, facciamo fare il poppante. Intratto, buonasera. Mi sei passato burudù comunque già, Sì, questa volta, diciamo, la parte bassa ho sofferto, un bel. Sì. Ti sto soffrendo, ma poi sono gonfio. Ciao Carlo, buonasera anche a te. Ciao Carlo, stavo facendo fare il tampone a mia figlia, tutto a posto, negativa. Ci aveva la febbre a 40 ieri, poi oggi gli è scesa 38, però lei ha detto che non è andata in contatto con nessuno, per cui c'era così, così può rientrare a scuola appena guarisce. È influenza sicuramente, e adesso tutti pensano che sia sempre la variante del Covid, ma non è così, a volte anche febbre, influenza, normale, dai. Luca! Eia! Ma non ti avevo detto di andare alla cruca lì, che così ti metteva la supposta a quell'asino e non soffrivi più? Tu hai voluto proprio soffrire. Carita, ne abbiamo già parlato, poi se mi veni, cioè, se a voi non mi piace, se mi piace, se toccate a fare in chivi. Se mi accompagni tu, ti tieni disponibile tu, la sera te lo paghi tu però. E vabbè, già però prima mi era posto buoni a me la supposta, da voi a te. Poi si prende il vizio, ed è brutto. Infatti diglielo, che poi prende il vizio, è una cosa che mi piace. Se tu mi accompagni, io sono appiedato, mi viene male, lasciare il tram, mi basta la gara, capito? Guarda, io macchina non ne ho, ho solo quella del mio padre. Non posso accompagnarti, mi dispiace. Ma siamo accompagnati a Natalia, lui c'è la macchina a gasolio, vero Natalia? E allora, anche a Cristian Porto, almeno anche a lui gli fa la rettifica. Beh, che se si fa a Cristian guai, e poi non si riassa a noi. Davvero, tu Cristian è golosone, ma lo portiamo noi a Cristian. Vabbè, là, Carlo comunque a posto con la roba là, sì. Sì, a cavalli golosi, sì, grazie Luca, l'ho chiamato e ci passo dopo pranzo e così concludiamo, capito? Grazie mille. No, già in gamba, là, già in... poi se hai problemi già non c'è problema. Comunque tu ti fai le prove e vedi un po', là. Anche io me lo volevo comprare uno, ma solo che non me ne posso nuda, poi non ve più nessuno, cioè poca gente, no? Magari così per fare qualche collegamento va anche bene. Giusto già, tu hai quello, colleghi bene con quella da 100 watt, no, 80, quanti watt da? No, io non ce l'ho più quello lì, l'ho venduto quello lì, l'ho venduto a fare. Da 80 e 100 watt, dipende quanti watt ti metti di entrare. Ma comunque va molto bene, ti fa aumentare i due segnali. Ma ho capito, dai Bianco che vado a prendere l'antibiotico, riprendi Cristian. Ma io mi, forse vado a prendere il mese prossimo, lo metterò in macchina sotto sedile. Dillo tu. Sto facendo a Itili, mi sentite bene, dai. Quante watt? 100 watt, però si può pilotare, se c'hai il controllo della potenza sulla radio, praticamente se vai a 1 watt esci con 10, se vai a 2 watt esce con 20 e così via. Infatti secondo quanti watt ti dai, ti dà tanto giusto, ma è un bel lineare, dai, è piccolo ma sincero. E per me già va bene. Domani me lo prendo, così facciamo qualche prova dalla macchina, eccetera, eccetera. 50, allora dai. Carlo, mi senti? Sì, avanti. Dove te li fai i lavori? Non ho capito. Dove te li fai i lavori? I lavori dove te li fai? In macchina. Sì, ma dove però? A casa? Sì, a casa, in garage. Papà. Sì, ho il garage giù e lo libero un po' entro il muso della macchina, perché c'ho talmente tanto casino che dentro non ci sta tutta, quindi farò così, mi dedico una mattina, penso di riuscire a fare tutto. Natali, ma queste cose golose che stavate nominando? Natalino è golosissimo. Carlo, tu vuoi sapere troppo adesso? Ti stavo dicendo dell'asino della Crucca a Lucca. Perché di cose golose ce ne sono adesso quando passo lì in viale Porto Torres. Mamma mia! Tra un po' vi mollo perché mi devo preparare. Comunque dai, già ci sentiamo alle prossimine, sono entrato giusto a salutarvi, ho acceso un attimo. Adesso mi cambio, poi c'è qualcosa e alle 21 devo essere, entro le 21 devo essere ad Alghero. Domani mattina esco alle 5 e poi mi strampo a letto. E ci mancherebbe che non ti strappi, mamma mia, la notte. Se rimani in ascolto, ti racconto una barzelletta, visto che ho nominato qua la Sottotorre. Vai, vai. Un altro è venuto un amico da Bandana, no? Lui mi aveva fatto anni prima, poi aveva deciso di venire qua in Sardegna, l'avevo fatto io. Una sera stava raccogli con Giorca, cosa fare, che cazzo voleva per forza fare qualcosa. Cazzo, mi sono preoccupato, perché mi ha detto, cazzo, non è il posto di cazzo, dico, purtroppo ci vuole lavorare. E lui rimane da casa, non è molto, cazzo, non ha detto, cazzo, non è il posto di cazzo, mi vengono tutte le... E allora ho preso, cazzo, e l'ho assecondato. L'ho posto sotto, là, un piano parlatore, però allo stesso tempo avevamo contratto lì. Dunque scendo, trovo la puttana giusta, c'è la signora giusta, gli faccio, ascolta, ho detto, guarda, ho comprato le tizie, ho detto, però amico mi vuole fare qualcosa, vai veloce, velocissima, che cazzo, sono le tizie, va fredda, il tempo di parlare, andare in macchina, tutto quanto, ha fatto il tragitto io, me l'aveva già respinto, aveva già fatto tutto. E cos'era, un coniglio? Un lepparo, gatto, un lepparo. Sono rimasto contentissimo, l'ho ringraziato a tanto, e lui è rimasto contento. Loro mi sono lamentato, era continentale, ma tutto, cazzo, 50.000 lire, ma sui qua già ho problemi, già ho un po' di amici alla Genova, quando si sono facendo un punto a fuori, meno male già ho ancora amici, ho ancora amiche di bella presenza. Ormai sono anche io, ho perso di vista, non so, un cazzo mi pare che se cui io vado con una mano e una cucina, e non ho più di vista, sicuramente sono trasportato a cazzo da un suo paese, cazzo, una peruviana mi pare che se cui io vado. Piano, mi prendi il microfono. Riprendo e mi saluto tutti che me ne sono andato a fatalità, e dai, ciao a tutti, per sentirti e tante cose belle. Ciao, buona precisione col cane, dai, buon bacio al cane anche a parte mia. Ciao Gianni, buon fine serata, ciao. E ciao Carlo, se sei in ascolto. Ciao a tutti, Gianni, Natalino, Cristian, Giovanni, Luca e tutti gli altri che sono in ascolto, ciao. Ciao Carlo, buon lavoro per dopo, dai. Ciao Carlo, buon lavoro anche da parte mia, ciao, le prossime. Tu con la risposta della Crucca, mi deludo, mi sovrapplesso adesso. Ah, Cristian, quando fai così ti temo a te. Sei, sono piccolino e nero io, E allora sei preciso a me. Sono piccolo e nero, peso sui 100 kg e basta, ma niente di che. No, 100 non li peso ancora. Ma io sono piccolo e nero, sembro Calimero, insomma, dai, piccolo e nero. E allora, anch'io sono così, piccolo e nero. Ma io sono alto, uno quasi 1,76, ma niente di che, mi sono piccolino di spalle. Coraretto, se pesi 100 kg non sei minore. ti sei venuto d'archiato, il classico sardo. Classico stile ex bodybuilder. Facevo bodybuilder che era piccolino, facevo palestra. Oh, amici modulatori, mi sentite? Cazzo. Ti sentiamo Giovanni. E poi facevo solo un bel mestiere. Il fabbro, piegare il ferro a mano. Allora picchi come un faro, come un fabbro. E lo sport di officina è il lancio del martello, la 5 kg però. Ah, io vi fare che siamo rimasti un po' che qua, passiamo su 23, che abbiamo rigato pure all'acqua, un po' carissimo. Sta attento, Cristian, ci sei sempre? Io sempre ci sono, sempre sempre. E dai che partiamo al 23, così come c'è un movimento. Chi c'è, Gio Maria e compa? Non lo so, ho fatto un... veloce, sono tornato da voi, dai prova ad ammazzarti. A togli chi c'è, Giovanni su 23. Oia, in viale Porto Torres ci sono le golosie. Aia. Ciao Natali. Andando. Eia, ci sono le asiatiche e pure le mulatte. Di tutto un po'. Cazzo, iniziano presto mi. Infatti sono le 8:21 e ci sono già. Si mettono da presto. Quelle se passi alle 9 non ci sono già più, poi all'altro giro ti tocca alle 10. Break. Avanti. Buonasera, buonasera a tutti. E allora? Oh, Anto, qua c'è roba golosa in viale Porto Torres. E cosa va in viale Porto Torres? Aspetta che ricordo il male. Ora, ora, si andava bene. E cosa c'è? Chiappette, chiappette. Perché stasera stavano parlando di cose golose, capito, Antu? Appaga, per andare a Porto Torres, sì, sì. Sono passato adesso lì davanti alla S, erano già pronte. Grazie, ma da niente, mi, uia. Adesso si scatenano qua, ce ne sono anche giù dove c'è il vialetto, capito, quelle asiatiche. E andiamo, si vogliono forruggiare a galla. Come trovano Antonio che lo trovano un bello prestante mio, vabbè fallo fanno. Ah, c'è gallai. Cappa, cappa, mi hai portato a torre, sì, sì. Sì, ho passato adesso tutto, sono quasi arrivato a Coporama. E come mai sei così forte? È perché fin qua mi sentite, poi come vado oltre non mi prendete più perché ci sono le collinette. Cappa, cappa, no, sei bello forte qua, è la verità. Cappa, sei 9:30 radio 5, 6. Ma penso che senti anche a me un bel forte. Grappa, grappa. Ehi, Anto, qua rimbomba tutto, ne arrivi forte, ce l'ho al massimo il volume, vai benissimo, ma anche Natalino lo sento forte. Siamo vicini a te. Ehi, Natalino non è tanto lontano da me, però io in quella zona sparo di più, vado molto più forte di Natalino. Sì, qua arrivi forte, forte e chiaro. Grappa, grappa, avanti Natalino. Come piazzo l'antenna lo frego? Ma non lo so, no. Domani prendo un po' di vitamine per questo, ad animarlo un po' questo che è in macchina. Meglio fai. Fatta lì, mica faccio già intenzione strana. Adesso nell'antenna nuova mi attacco quel perizoma là. Scappa, ho intenzione di un po' fare giù strane. Allora cosa ho intenzione di, come si dice, di metterla più in alto, di metterne un'altra. Ma se vuoi ti pigli qua, che c'ho io, te la metti a posto, perché qua quando piove entra acqua, bisogna vulcanizzare dove c'è la bobina. E questa qui è 5 ottavi, questa pompa forte. Se la metto qua pompa forte, sì. Cappa. Dove è strano. Ola, ola, ola. che è strano. Una cosa, la figlia ha umidità, la stazione è un po' alta. Vabbè. Arrasa, vabbè. Un cazzo. Un regolato. Ola. O di meno. Ora mari. La stazione la sto regolando. Ola. Ola, ola. Andava. Cappa, adesso sto incominciando a perderti un po'. Dove sei arrivato? Cappa, cappa, vai. È la persona. Natalia, ci si lo senti? Io non lo sento quasi più, eh. Carlo, mi senti? Neanche io lo sento più. Vuol dire che è andato dove sono quelle collinette lì. Viene male a sentirlo. Ma è quella signorina, ho sentito una signorina, ho sentito poco fa. Già è giù, la signorina. È giù. Vai dalla gentesa io mi. Dai non capai da quanto si intendi forti la volta della femmina. Gabba gabba. Io sono qua su. Ui, dai. Vedi da fuori di investito Sanremo. Mamma mia, tanto autorizzai padre. E cosa c'hai? Devi una bella su Sanremo. Mamma mia. A rimane scido che si spaventa a passo in scido. Pacca di daiga. Ora, ora. Questo è il vento che ha fatto ieri. Ma triurato voce l'antenna mia, lo sai. Un bel niente la dimenti. Pure Carlo sta fatendo meno, ma quella di Carlo è alta 8 metri e mezzo, mi quella di Carlo. Tanti saluti da. È una bestia di antenna. La Gimpo è bella. Ma non rifatti nulla, non rifatti. No, non gli ha fatto niente, è robusta quella l'antenna. Gli ho detto non ti preoccupare, quando era assenti da Alghero a Ginteso. Gli ho detto vai che non gli è successo niente, ha cambiato roba di vento. No, non gli fa niente, sono progettate bene, sono. Sto scherzando, Natali. Sì, cazzo. Forse gli c'è i problemi, sono progettate molto bene quelle antenne. Tranquillo che non li fa nulla. Ma poi sono robuste, sono fatte di materiale come si deve. Adesso è logico. Allora dobbiamo anche i problemi atmosferici, dobbiamo sopportarci. Dimmi tu. Quando l'antenna è buona non si dronca, tranquillo. Ehi, Aru, grido. Cappa, chi che voleva entrare? Avanti. Se la stanno finendo il bianco, c'è qualcuno che sta chiamando sottofondo. Buonasera. Carlo, Avanti, Carlo. Ciao, Carlo. Un brutto incidente? Andando verso il carro, ho capito. Un brutto incidente. Vabbè, cosa ci possiamo fare noi? Ciao caro, non sono Claudio, sono Tina. Va bene, dai, vi saluto ragazzi, riprendete, sono in corrente. Ciao Natale, ciao Antonio. Ciao Tino. Ciao Carlo, ciao ciao. Cappa, ciao T, ce la risentiamo. Ciao ciao. Ma tu hai un rumore di alternata ora, eh? Ora, ora, adesso va bene. Ora sì, devo andare a girare il pollo. Gli ha dato il suo microfono per i capricci fa. Cappa Natalia, ancora c'è il rumore alternata. No. Gli ha dato un bazzino, il birichino, Gli ha dato fa i capricci fa. Se vai a ghiani di rado. Stamattina ha piovuto, ho visto. Io non sono uscito stamattina. Parecchia umidità c'è, non ha scaldato niente. È sempre un riso, hanno un rado, Uioia. E cosa vuoi? Io non sono uscito, quindi non me ne sono accorto. Mia moglie non si sente bene, lo stesso. Deve si capire due freddo e non si intende bene. Un po' di umidità, fa freddo, d'estate mi già ci sta bene. Ma va, tutti canti di Marasucci di Biglia, va. E infatti è freddura che ha pigliato. È coricata, infatti non si sente bene, no? Che affagabba. Ah, aggiungato un apparecchio che non era i scendi passati. Allora proviamo una talia a ver se funziona questa cosa. Veloce. E proviamolo. Comunque c'hai un'alternata che si sente appena ma già si sente. Cappa. Vabbè, se va meglio l'alternata. No, si sente lo stesso. Non è un'alternata, è la ventola dell'alimentatore. Vorrebbe messo più lontano allora. Vabbè, proviamolo questo apparecchio. Quella è l'alternata, non è la ventola dell'alimentatore, Antu, è un'alternata. Ora pare che va meglio. Perché hai di là, dove aspetta che chiudo questo? Com'è adesso? C'è sempre l'alternata. Cosa cazzo di bosso va? Se non lo so, se l'alimentatore fanno questi problemi. Io perché l'ho cambiato? Che a me mi faceva venire il QRM del computer, del baracchino. Allora sono preso da internet e questo che c'è la manina è un bombo. Buona, che marasucci, beh, aspetta che provo a fare il cambio. Andiamo. Mi sentite? Sì, signore. Cappa, questo qua è un portatile. Io vengo a scendere. Cappa. Com'è lui? Prova. 1, 2, 3, prova. Ma non c'è l'alternato. Cappa, che sa usare la marasucci, va bene, là. Adesso vi devo lasciare, ce la risentiamo domani, ok? Perché devo fare roba stanotte, ok? Buonanotte a tutti. Ciao Antu, buon proseguimento, alle prossime, dai. Ciao. Ciao Antu. Ciao. Ciao, buon voli. Ciao, buonanotte a tutti. Natali, mi senti con l'attenino di gomma? Eia! Cappa, dai, chiudo che punto fa la prova. Cappa, ciao. Passo lo sentivo io. Con l'antennino di gomma scendimi. È un portatile. Che è, c'è un altro Natali. Eia, non credo che ha giù di nato. Ah, ma esiste a misurarmi la glicemia e mi faccio l'insulina della notte. Devo fare solo quella, la mattina una pastiglia e tutto va bene. Ascolta a me, consigliere, glicemia è buona? Io sì. Beh, se uno fa della vita sana, poi magari non ci manco ne mangi. L'unica cosa è non fare stravisi. A chi se io fosse stravisi, ma sa pure a me la glicemia, non è che non mattano. Natali, è normale, ma ci siamo arrivati a stravisi, mi dai di la pizza, insomma ti dà, lascia di palla. Poi da ci mangiamo dopo. Mi dà, come si mangia spesso, non vi so. Se non ci sono e non vedo. E alla fine non lo so cosa fa. Voglio paccarizzare qua. Luca, tu non vi vuoi va nuda, no? Chi sa di passi mamma Duglia, signora Caterina, di passi come te mamma? Mamma va via il travisi, una di viraggio misurata, eravamo in campagna alla Landrica, andavamo lì a pranzo dal compare di Babbo. Allora sai all'ora di pranzo quanto ce l'aveva? A 500. Mamma l'ha avuta. Un picco massimo l'ho avuta a 735 mi pare, 740 se non mi ricordo. Comunque una cosa del genere, ho portato al pronto soccorso e stava sempre 7, entrava in bagno spesso. Ehi guarda, sto dicendo, mamma era una scena, vazia il travisi, magari li veniva i ciavammi dei passi, era la malattia di vazia venire i ciavammi, no? E dei rassini, chi è da mangiare che cosa, non dobbiamo mangiare e tirare la glicemia, non c'è nulla da fare, capito? Non lo so incontrare. Mamma è diventata Gegga, mi dà, ha avuto il distacco della retina, da poi era pigliata all'anchi e no, non poteva stare dritta, chissà, femmina. Guarda, tutto quello che è successo a mamma non ti lo posso raccontare. Immagino. Cerchiamo solo rassegnare, capito? Solo rassegnare. Altro non possiamo fare. E ci vorrebbe qualcuno che la tenesse a stecchetto, io a mamma.